sia già ormai sparsa la notizia che Rai non avrebbe messo a disposizione il segnale in alta definizione per gli europei, di cui ha ottenuto i diritti per tutte le piattaforme, ricordiamolo. E la produzione internazionale ovviamente è in alta definizione, però non essendoci una piattaforma e un'offerta in alta definizione della Rai ancora, si pensava che non ci sarebbero stati i tempi tecnici per metterla a punto. Invece l'annuncio è stato di segno precisamente opposto. Quindi sul digitale terrestre e va detto solo in alcune aree, quindi Milano, Roma, Torino, la Valle d'Aosta e la Sardegna, quindi soltanto in queste cinque aree, sarà disponibile un canale specifico in alta definizione che coprirà i campionati europei di calcio. Questa ovviamente è una notizia di per sé importantissima per tutti gli appassionati e per tutti i possessori di un TV in alta definizione, e sono tanti, anche se pone alcuni ma e alcuni se, di cui forse è il caso di approfondire un attimo. Allora, prima di tutto diciamo che cosa è necessario avere per vedere questi canali in alta definizione. Abbiamo detto che per vedersi i film distribuiti con un Blu-ray è necessario avere, oltre che la TV in alta definizione, che può visualizzare programmi in alta definizione, il lettore Blu-ray. In questo caso stiamo parlando di trasmissioni in diretta. E allora qual è la dotazione tecnologica da avere? Allora, bisogna avere un decoder, quindi un ricevitore digitale terrestre, attenzione, non un decoder comune come quelli che si sono venduti in questi anni, ma un decoder già abilitato all'alta definizione, quindi capace di sintonizzare questo segnale e ovviamente che dispone di un'uscita HDMI necessaria per vedere l'alta definizione. Quindi è un ricevitore diverso da quelli che sono in questo momento in vendita e sono stati venduti in questi anni. Devo dire che il comunicato della RAI, in maniera un pochino ottimistica, semplicemente si augura che i distributori di decoder, sto leggendo letteralmente, proprio portino sugli scaffali per tempo i decoder HD, in modo che chiunque in queste aree abbia un televisore HD ready e si procuri un decoder HD possa vedere le partite in alta definizione. Ecco. Quindi in questo momento non ci sono. In questo momento non ci sono. Mi sono informato, ovviamente, ho cercato un po' di fonti, insomma i prodotti ci sono tecnologicamente, perché all'estero sono già utilizzati dei decoder similissimi. Comunque la quantità che potrebbe arrivare sul nostro mercato di questi decoder prima dell'inizio degli europei è di massimo qualche migliaio di pezzi per tutto il territorio nazionale. Quando dico qualche migliaio parlo di 2-3 mila, quindi sicuramente molto una pochi. Quantità molto limitata. Senti, di c'è fatto... c'è un altro metodo, va detto, ci sono alcuni TV, molto pochi, molto nuovi, ma alcuni TV che hanno già internamente il decoder digitale terrestre anche con la funzionalità alta definizione, quindi capace di sintonizzare questi canali. In questo caso non serve neanche un ricevitore esterno, però attenzione, prima di acquistare, sincerarsi bene che si tratti di un TV già con il ricevitore compatibile per l'alta definizione. Ecco, qui è facile confondersi, perché potrebbe essere il TV già pronto per l'alta definizione, il TV col decoder digitale. Ecco, queste due non sono condizioni sufficienti. Ci vuole il decoder digitale integrato compatibile con l'alta definizione.